L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati per questa puntata in cui vi daremo diversi spunti di riflessione, almeno speriamo, ci proveremo. Iniziamo dal referendum sulle trivelle, dopo le recenti affermazioni del ministro dell'ambiente Galletti proprio al Sole 24 Ore. Poi faremo un passaggio sull'agricoltura biologica, il nuovo regolamento europeo per il biologico, e concluderemo parlando di pesce e di truffe alimentari. Quindi tocchiamo davvero tanti ambiti, tanti temi. Cominciamo però dal referendum. Come detto, è il 17 di aprile, manca davvero poco. Il nostro ospite è Agostino Re Rebaudengo, presidente di Asso Rinnovabili, associazione del settore appunto delle rinnovabili. Ben ritrovato. Io per cominciare le leggo un passaggio dell'intervista del ministro dell'ambiente Galletti, che dice: se voterò, voterò no. L'intervista appunto è al Sole 24 Ore. Trovo che questo referendum non abbia ragione, dice. Il problema oggi, ricordo a tutti, non è quello di non estrarre petrolio, ma di consumarne meno, al di là della demagogia e dell'ipocrisia. Io le chiedo innanzitutto, Presidente, qual è il suo parere su come il Ministro imposta l'intera questione? Diciamo, a mio parere il referendum in Italia è chiaramente regolamentato, per cui se dei cittadini ritengono di proporre e ottengono, diciamo, l'ok dagli enti competenti di proporre l'abolizione di una legge o parte di una legge dello Stato, credo che abbia dignità come qualunque tipo di altro referendum. Per cui in specifico, diciamo, quello di cui stiamo parlando è, diciamo, l'abolizione della possibilità di concedere proroghe o altre diciamo diritti di estrazione di petrolio e di gas nelle 12 miglia. Tra l'altro, certo, 12 miglia è già un limite nel quale non si possono più fare nuove, no, piattaforme di estrazione, quindi c'è anche questo da tenere in conto nello specifico. Sì, in realtà quello che qui si sta dicendo, diciamo, nel referendum si chiede la possibilità di non continuare a prorogare all'infinito queste concessioni, ma che e di darne delle nuove, ma che sostanzialmente arrivate al termine, quindi non è come, e qui lancio un po' una frecciatina, quello che è successo sullo spalma incentivi per il fotovoltaico, in cui in modo retroattivo si dice tu non hai più diritto a, riceverai meno sostegno di quanto previsto. Qui il referendum dice quello che oggi è previsto e, diciamo, le compagnie che petrolifere che oggi estraggono lo possono continuare a fare fino a scadenza come definito nelle concessioni, ma non si devono concedere altri permessi o allungare le concessioni vigenti. Quindi non mi pare neanche che sia una cosa così drammatica. In più, diciamo, questo referendum, se vogliamo, e questo è un po' forse quello che in questo momento sta imbarazzando, ha preso una connotazione, considerato purtroppo un atteggiamento, diciamo, un po' troppo contro le rinnovabili, ha preso una connotazione: tu sei per un futuro più sostenibile e più green, o pensi che diciamo, il petrolio e gli idrocarburi continuino a essere il futuro del nostro paese? Che è l'altra parte dell'affermazione di Galletti, che dice appunto il problema non è quello di non estrarre petrolio, ma di consumarne meno. Però se ne consumiamo meno, insomma, l'energia da qualche parte la dobbiamo prendere, quindi... Ma certo, del metano contribuiscono scarso il 3% del fabbisogno nazionale. Noi circa un mese e mezzo fa abbiamo scritto a Renzi e al governo, ai ministri competenti, tra cui ovviamente anche il ministro Galletti, ricordando che nel nostro paese non abbiamo, diciamo, una legge che ferma sulla possibilità di utilizzare il biometano, cioè il gas che si produce diciamo, dalla fermentazione degli scarti, dei rifiuti urbani e dell'agricoltura, che potrebbe soddisfare, diciamo, tra l'8 e il 12% del fabbisogno nazionale. Quindi, e dare, diciamo, nella filiera industriale di sviluppo delle macchine e del, diciamo, del lavoro che questi impianti porterebbero, diciamo, almeno altre 7.000 posti di lavoro, quindi più del doppio di quelli attualmente diciamo impegnati nella filiera delle piattaforme. Quindi diciamo non capiamo perché di fronte a una situazione del genere non si prenda l'occasione, diciamo, da parte del governo, no, di dire bene, allora noi pensiamo a la nostra posizione è questa rispetto alle piattaforme, ma B, con chiarezza e con coerenza, noi vogliamo spingere le fonti pulite rinnovabili e quindi entro 3 mesi approviamo tutto quello che dobbiamo approvare sulla filiera del biometano, eccetera, eccetera. Sì, infatti quando poi il ministro allude alle riforme, sicuramente è su questo versante forse che si potrebbe insistere, volendo guardare al futuro, anche uscendo dal particolare del referendum, ma insistere sull'aspetto di darsi una visione, no, di lungo periodo, cambiando anche le fonti di approvvigionamento. Certo, e in più, diciamo, siccome su questo rispetto alla Germania, all'Olanda, alla Svezia siamo indietro di 7 anni, nel senso che loro stanno facendo il biometano, hanno sviluppato la tecnologia, immettono questo biometano in rete, diciamo, di distribuzione o, diciamo, nei distributori con le macchine alimentate a metano GPL, noi siamo ancora fermi al palo e con parole, con problemi di PIL, di occupazione. Oggettivamente auspico che il ministro Galletti e il governo abbiano, diciamo, più concretezza nel provare a dare delle risposte che sono quelle che poi il paese chiede in termini di sostenibilità, di posti di lavoro e del PIL che tutti vogliamo. Allora, la ringrazio, buon lavoro e a risentirci alla prossima occasione. Grazie a lei e a tutti i telespettatori radio. Ancora grazie ad Agostino Re Rebaudengo, presidente di Asso Rinnovabili. Passiamo a un altro tema caldo di questi giorni. La stampa di Torino pubblicava qualche giorno fa un articolo dal titolo «Biologico, rischio Far West nelle nuove norme europee». Nella bozza del nuovo regolamento, diceva sempre il quotidiano torinese, ci sono meno controlli, the regulation, saltano i limiti di pesticidi nei prodotti bio. È una bozza, appunto, c'è molta discussione ancora sul tema, fortunatamente. Noi abbiamo sentito il parere e l'abbiamo trovato particolarmente preoccupato di Vincenzo Vizioli, presidente di AIAB, che è l'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica. È un'associazione che tra l'altro in questi giorni ha sottoscritto anche un appello all'Unione Europea affinché venga rifondata la politica europea sull'agricoltura in una direzione che premi di più le pratiche agricole innovative, sostenibili, amiche dell'ambiente. Ecco, insomma, in questa intervista, Vizioli, abbiamo toccato un po' tutti questi aspetti. Il discorso, diciamo, sono relativi, chiacchiere, nel senso che ancora sì, discussione. Il trilogo, il problema è che ha preso un verso che rende, insomma, questo nuovo regolamento veramente molto poco utile per il settore, nel senso che i cambiamenti che ci stanno non sono cambiamenti di miglioramento del snellimento della burocrazia, che era uno degli obiettivi che sono 20 anni che si prendono in mano e ogni volta si peggiora la situazione, e poi di efficacia, efficienza del sistema di controllo, ma soprattutto c'erano degli elementi che erano interessanti, tipo il discorso sulle deroghe, il discorso sulla certificazione di gruppo. Alla fine, insomma, diciamo, sta vincendo un taglio molto più commerciale che produttivo, e la cosa che ci preoccupa molto è questa discussione che c'è in atto sulle soglie nel biologico, così come è successo per gli OGM, che alla fine lo 0,9 è il limite soglia anche per il biologico. Secondo me è un errore, però insomma il fatto di accettare soglie di prodotti non conformi nel biologico, anche se sotto i livelli di sicurezza, tutto quello che vogliamo dire, è un modo di depotenziare i valori aggiunti che ci ha il biologico e soprattutto non è comunicabile una cosa del genere. Il problema non è quello di togliere la certificazione agli operatori, perché una volta che è dimostrato che loro non hanno trattato un effetto deriva, il problema è solo come risarcirli del danno subito. Ma quel prodotto, secondo me, secondo AIEB, non va sul mercato del biologico. Poi sì, sulla PAC, insomma, c'è questa esigenza di andare. Che poi a quanto capisco il discorso ovviamente a questo punto è connesso, però, perché se voi sottolineate che si vanno a favorire produzioni intensive, eccetera, eccetera, cioè quindi c'è tutto una linea di pensiero che va verso quello e non dall'altra parte, insomma. Verso tutto il grande, non il piccolo. Questo è un problema, direi, ciclico e che sta diventando ormai cronico. Tutti i documenti che preparatori della riforma della PAC, dei piani di sviluppo rurale, di qualsiasi intervento della Comunità Europea, sono documenti che hanno una lungimiranza fantastica, e tutte le volte il mondo del biologico dice: finalmente stiamo modificando il sistema, il modo di pensare, il modo di chiedere all'agricoltura un contributo alla sostenibilità. Quando si arriva all'applicazione non si scappa. C'è sempre la difficoltà a mettere in pratica che il concetto di chi inquina paga, che il premio va dato per situazioni virtuose e non per un metodo convenzionale che non impone nessun cambiamento alle aziende agricole. Ma questa è purtroppo, noi abbiamo questa riforma della PAC che partiva dal fatto che c'era un premio base basso per tutti quanti, poi dopo i premi si alzavano a seconda della adesione a sistemi qualitativi, fino a arrivare a quello che chiamavano greening, all'inverdimento dell'agricoltura, che era alla fine è andato che tutti prendono tutto. E quindi per l'ennesima volta non si fa una seria differenziazione tra chi ha fatto una scelta anche onerosa di interiorizzare quei costi che l'agricoltura ha sempre scaricato sulla collettività, e quindi mettiamo allo stesso livello un'agricoltura che usa il glifosato, che è un prodotto cancerogeno, e un'agricoltura che usa solo prodotti organici. È il cambiamento mancato, e a tutt'oggi non esiste un vero indirizzo, perché per quanto nessuno possa più dire il biologico è una nicchia, il biologico insomma, crederci o non crederci, il biologico è l'unico settore che cresce in Europa. In Italia finalmente cresce il mercato interno, crescono le esportazioni, e poi esce il documento del piano strategico sul biologico, ma non c'è un euro di posta per attuare quei meccanismi, non esiste un indirizzo politico che stanno dando i piani di sviluppo rurale, perché tranne qualche piccolissima eccezione nessun piano di sviluppo rurale ha realmente investito sul biologico. E così Vincenzo Vizzioli, presidente di AIAB. Ci fermiamo per un pochissimo e poi parliamo di pesce. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24. La passione si sente anche in viaggio. L'altro pianeta. Eccoci di nuovo insieme per questa seconda parte dell'altro pianeta, ancora un ben ritrovati da Laura Bettini. Abbiamo detto prima del referendum sulle trivelle, abbiamo parlato di agricoltura biologica, come promesso adesso arriviamo al pesce. Negli ultimi decenni stanno aumentando i consumi pro capite di pesce, e come spesso accade purtroppo più c'è mercato più ci sono i furbetti, e quindi aumentano le frodi in genere, e in particolare le frodi alimentari sanitarie, cioè quelle che sono in grado di determinare effetti negativi sulla salute dei consumatori. Allora abbiamo raggiunto Luciano Azzori, che è un altro gradito ritorno al microfono dell'altro pianeta, consigliere segretario dell'ONB, esperto in igiene e sicurezza alimentare, e le chiediamo, Azzori, innanzitutto che rischi corriamo e poi ci aiuti ad evitare le trappole. Allora, diciamo che, come ha detto lei, ultimamente, negli ultimi decenni, in Italia, ma in tutta Europa, si sta consumando molto più pesce. Questo è dovuto a tutta una serie di fattori. Prima di tutto sono diminuiti drasticamente i prezzi, quindi più accessibile. ma anche perché si è diffusa, questo è molto interessante, molto importante, l'informazione che fa bene consumare pesce, soprattutto perché è ricco di omega 3 e per tanti altri fattori. Però come in tutte le cose, quando aumenta il business, il commercio di un qualcosa, si attivano anche i furbetti, perché come ha detto lei, la maggior parte dei consumatori consuma prima con gli occhi, dopo con la bocca, e successivamente, se succede, con la ragione. Quindi se ingannare. Succede addirittura. Se succede, non è detto. Quindi cosa accade? Che nel settore ittico ci sono parecchie contraffazioni, cioè frodi alimentari, il termine esatto, perseguite legalmente il codice penale. Una di queste, è la più comune, è l'uso del monossido di carbonio o dei nitrati, entrambi non consentiti nel settore ittico, per colorare le carni di rosso. Quali carni? Le carni specialmente del tonno. Il tonno abbiamo fondamentalmente due specie, abbiamo il tonno pinne gialle, che è sempre molto importante, più venduto, però qualitativamente, quindi dal punto di vista economico del prezzo al chilogrammo, molto inferiore rispetto al tonno rosso. Il tonno rosso costa molto di più, quindi per ingannare il consumatore colorano spesso le carni. E questa è una prima pratica. E se non è rosso, quindi lo faccio diventare rosso, questo è? Perfetto, perfetto, perché noi consumiamo con gli occhi, torniamo sempre lì. L'altra, ma non si pratica, sente al sapore che c'è stato questo trattamento? No, nella maniera più assoluta. L'altra pratica, anche questa molto utilizzata nel settore ittico, è lo sbiancamento delle carni con la comune acqua ossigenata, cosiddetto chimicamente parlando perossido di idrogeno. Questa sostanza, essendo fortemente ossidante, sbianca le carni, ravviva, se viene messo nella pelle dell'animale ancora non sfilettato, il colore della livrea, lo fa sembrare insomma fresco e invitante, e per di più copre eventuali altri odori dovuti alla iniziale decomposizione. Perseguita anche questa, solo che dal 5 febbraio di quest'anno è diventato l'uso dell'acqua ossigenata in determinati contesti, precisamente nei cefalopodi, molluschi cefalopodi, quindi parliamo di totani, di seppie, di polpi, congelati o decongelati, ed eviscerati, è ammessa. Quindi allora, per il pesce sfilettato che diceva prima, no? No, perché questo? Perché studi hanno dimostrato che l'uso dell'acqua ossigenata, allungando la vita del pesce, la vita commerciale intendo dire, quella, la cosiddetta shelf life, determina anche quella che è la produzione da parte delle carni del pesce di una sostanza chiamata istamina, che è un processo naturale che avviene nel pesce, ecco perché il pesce deve essere sempre fresco, perché un pesce che ha già qualche giorno ha più istamina di un pesce appena catturato. L'istamina è una sostanza che crea una forte intossicazione, chiamata sindrome sgombroidale, tipica dello sgombro quando non è fresco, che è molto simile a un'allergia, può anche portare a rash cutanei, a febbre, spesso si viene anche ricoverati per questo problema. Mentre invece si è visto che nei cefalopodi è molto più difficile che ciò avvenga. Okay? Ecco da qui nasce questa. Ma il problema è che dal 2010, sempre per una nota del Ministero della Sanità, era vietato l'uso dell'acqua ossigenata, sia come sostanza pura, sia come miscela con altre sostanze, anche se ammesse legalmente. Adesso invece dal 5 febbraio di quest'anno è legale, purché non si superi l'8% di concentrazione di acqua ossigenata e sia usata anche con altre sostanze tipo l'acido citrico o i sali dell'acido citrico, che sono ammessi legalmente come additivi negli alimenti, nel pesce. Qual è il problema però? Mentre l'acido citrico e i citrati sono additivi, quindi nel momento in cui sono usati per legge li devo dichiarare, e quindi il consumatore se li trova nell'etichetta, nella confezione o nella pescheria, quando viene venuto quel pesce, c'è per legge deve essere dichiarato. L'acqua ossigenata è stata considerata un coadiuvante, quindi una sorta di, chiamiamola, di escamotage, perché i coadiuvanti, essendo delle sostanze che vengono usate nel processo produttivo, e non dovrebbero comparire nel prodotto finale, di conseguenza cosa succede? Che non c'è l'obbligo di essere, che vengano dichiarati, quindi io da potenziale consumatore non so che lì è stata utilizzata. Quindi mi vedo queste belle carni bianche così luminose appena fatte, in realtà non lo sono state trattate e non c'è nemmeno scritto che sono state trattate. Perfetto, e questo a mio avviso, anche se legalmente è corretto, non è corretto nell'informazione al consumatore. E poi c'è anche un altro aspetto. Qui c'è il consumatore che a mio avviso deve essere tutelato nella sua scelta. Io mi immagino, non lo so, un signore anziano, una signora che deve andare a comprare il pesce, non ha quelle nozioni che posso avere io, che può avere lei, e si trova lì e pensa che quello più bianco sia il più fresco, il più naturale, mentre invece è proprio l'opposto, perché le carni dei cefalopodi sono tutto tranne che bianco cangiante, sono bianco panno, bianco sporco, che è naturale quel colore. Ma c'è anche un altro aspetto, pensiamo alle aziende invece, le aziende che lavorano ancora in maniera, diciamo, tra virgolette, artigianale, che non vogliono utilizzare determinate sostanze per loro scelta per dare un valore aggiunto, si trovano a dover forse chiudere o sicuramente dimezzare o ridurre fortemente le proprie fatturati, le proprie vendite, perché poi il consumatore decide sul mercato, viene consumato soprattutto quel pesce. Un po' come è accaduto negli anni con la frutta non perfetta, diciamo così, costringendo tutti a produrre frutta perfetta. Perfetto, quindi ecco, questo è quello che potrà sicuramente, anzi sta già sicuramente accadendo. Ma poi c'è anche un altro aspetto che io trovo, mi metto nei panni degli organi di controllo. L'acqua ossigenata, nel momento in cui viene utilizzata, e quindi reagisce con le carni dei totani, delle seppie, dei polpi, eccetera, non lascia traccia, non la si può ricercare analiticamente successivamente, perché viene completamente trasformata in acqua naturale e in ossigeno. Allora, perché la legge mi dice non devi superare l'8% di acqua ossigenata? Giusto per dare un valore, l'acqua ossigenata che noi compriamo regolarmente nei market per usarla a casa è di norma il 3,6%, cioè 12 volumi, quindi questo è più del doppio, quindi molto aggressiva, questo per dare un valore. Sì. Se viene utilizzata in concentrazioni molto più elevate, che potrebbero essere pericolose per la salute, o che se viene utilizzata per tempi superiori a quelli indicati dalla legge, come fa a difendersi il consumatore? Come fa a indagare? No, ma perché la legge dà quel tetto? Perché oltre quel tetto diventa pericolosa? È molto probabile. È probabile, ma non certo. Ecco, diciamo così. Quindi si può usare al di sotto di quel tetto, non lascia traccia, non si scrive in etichetta, e che effetto ha sulla salute? Lo sappiamo. Teniamo conto che fino adesso, fino al 5 febbraio di quest'anno, la considerata era considerata un presidio medico-sanitario, cioè utilizzata per disinfettare, infatti lo usiamo molto per le piccole ferite della pelle, per toglierci il cerume dagli orecchie, per tanti fattori, ma non certo per utilizzarla in ambito agroalimentare. Ciò vuol dire che fino adesso fino al 5 febbraio era stato dimostrato che poteva essere pericoloso. La pericolosità era dovuta soprattutto allungando la vita del pesce, determinava la produzione di istamina, e l'istamina era pericolosa, quindi era un pericolo indiretto, era la concausa della produzione di istamina. Siccome nei cefalopodi è molto più difficile, non dico impossibile, ma molto più difficile produrre istamina, ecco che è stata ammessa. E poi ci sono anche, o perlomeno... Però potenzialmente potrebbe accadere, scusi se interrompo. Sì. Ma poi se io sono una persona salutista, non voglio contaminazioni chimiche, io voglio mangiare in una certa maniera, perché non devo essere informato? Perché? Perché devo stare attento a valutare gli aspetti cromatici, cioè il colore più chiaro, più scuro, più cangiante? Perché non lo si scrive e io faccio una mia scelta? E questo però è legale, perché la legge dice che i coadiuvanti non c'è l'obbligo di indicarli, mentre invece gli additivi, quali l'acido citrico, i citrati, altre sostanze, invece c'è l'obbligo. Ecco qual è il problema, a mio avviso, la non incorretta informazione da parte nei confronti dei consumatori, e soprattutto anche che può succedere, diciamo, la chiusura, la potenziale chiusura di aziende che lavorano ancora alla maniera tradizionale, cioè non vogliono mettere sostanze aggiunte nei propri prodotti ittici. Ma chi lo usa? Chi la usa quest'acqua ossigenata? Cioè la usa il pescatore, la usa quello del banco, la usa il... Gli addetti ai lavori. Si precisa, può essere lui anche l'ultimo alla pescheria, come può essere chi fa il prodotto in certa maniera. Quindi non l'importante è che si rispettino determinati, come dice la legge, concentrazioni, tempi e via dicendo. Anche quello però, io dico, da organo di controllo mi metto nei loro panni, come fanno a verificare, visto che non lascia traccia. C'è anche da dire un'altra cosa. Molto probabilmente noi abbiamo mangiato per parecchio tempo prodotti ittici, calamari, soprattutto totani, trattati con l'acqua ossigenata di importazione spagnola, perché in Spagna già da... alcuni anni ha ammesso l'uso di questa sostanza. Non a caso l'Italia, per poter valutare l'uso, ha chiesto e ha voluto vedere quelli che erano i dati ottenuti dall'Agenzia Spagnola per la Sicurezza Alimentare per la Nutrizione, il cosiddetto AESAM. E quindi c'è anche un fattore, ci potrebbe essere anche un fattore di natura commerciale per rendere l'Italia, i prodotti italiani, i cefalopodi italiani, più competitivi nel mercato nostro rispetto a quelli spagnoli. Ci potrebbe essere anche quest'altra chiave di lettura, comunque questa la lasciamo a chi è più addentro rispetto a noi. Bene. Cioè, insomma, non lo so se bene o no. Comunque, Luciana Azzori, io la ringrazio per essere stato con noi anche in questa occasione e averci aperto gli occhi, ecco, su questa questione. Grazie e a risentirci. Grazie a lei. È tutto per questa puntata. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora.